Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti, da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. Allora, molti di voi lo ricorderanno, era stato uno dei nostri ultimi temi prima di chiudere bottega e mandare Salva Danaio in ferie a fine luglio. E naturalmente però non potevamo non riprendere l'argomento del credito al consumo, perché il 19 settembre entra in vigore la riforma di questo settore, che è molto importante per il nostro paese perché è cresciuto tanto negli ultimi anni in Italia, e quindi entra in vigore la nuova disciplina sui prestiti e i finanziamenti. In questo modo anche l'Italia si adegua agli standard europei su questo argomento. Quali sono i cambiamenti più rilevanti? Di sicuro quella a cui è stato dato ampio risalto è la novità relativa al diritto di recesso. C'è poi il tema dell'informativa precontrattuale se si vuole richiedere un finanziamento, la pubblicità delle condizioni dei prestiti, e poi c'è anche l'ambito molto ampio ed importante della riorganizzazione della professione di mediatore creditizio. E allora tutto questo cosa comporta per le abitudini dei consumatori nell'ambito appunto della scelta del prestito, che è naturalmente molto spesso importante per l'acquisto, non so, di beni durevoli per la propria casa, la nuova automobile, il nuovo frigorifero, insomma molte cose le saprete anche grazie al dossier speciale che domani sarà in edicola con il Sole 24 Ore. Noi, per ritornare su questo argomento, abbiamo reinterpellato le due persone che ci avevano già aiutato nella puntata di fine luglio. Bentornato al collega del Sole 24 Ore Plus 24, Nicola Borzi. Ciao. Ciao Deborah, buongiorno agli ascoltatori. E bentornato al presidente di Assofin, l'organizzazione che riunisce le maggiori società di intermediazione finanziaria attive nel settore del credito al consumo e dei finanziamenti immobiliari, Valentino Ghelli. Dottor Ghelli, bentornato. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, le vostre domande, 800 24 0024 è il numero verde a vostra disposizione. Se avete intenzione di chiedere un prestito da qui alla fine del mese, alla fine dell'anno, sappiate che adesso le società che ve lo erogheranno dovranno adottare certi comportamenti. Cercheremo di capire cosa cambia rispetto al passato, insomma se davvero si rafforzano le tutele di noi consumatori. Potete anche scriverci al 349-238-6666. La borsa, abbiamo già dato delle anticipazioni nel giornale radio, come siamo abituati a fare, quadro contrastato, l'Europa vede negative Parigi e Londra, Francoforte positiva, Milano meno 0,38, oggi su Milano pesano di nuovo il calo di Azimut, Ansaldo meno 1,69, per Azimut il calo di quasi 2 punti, Mediolanum in ribasso di 1,5 punti, e poi CIR meno 1,39, un punto di ribasso anche per la Popolare di Milano, per A2A, per Telecom, per Unicredit, Fiat meno 0,7. Sul tema avete sentito tutte le notizie del giornale radio. Oggi l'assemblea dei soci per la formalizzazione, per la decisione appunto definitiva sul cosiddetto spin-off del settore auto. Su Fiat oggi che perde circa mezzo punto, adesso prima perdeva di più, pesano anche i dati sulle matricolazioni europee, che hanno dato ancora una volta dimostrazione di come questo settore soffra ampiamente, e anche le statistiche di luglio e agosto sono piuttosto pesanti. L'Automatica più 2,35%, il miglior titolo di Piazza Affari dopo la vittoria delle lotterie dell'Illinois. Per Campari rialzo di 2 punti, questa società pure si rafforza negli Stati Uniti, ha siglato un accordo per l'acquisizione di alcuni brand e quindi il mercato premia. Bene anche Luxottica, in rialzo di 1 punto, Monte dei Paschi più 0,8%. Ancora al galoppo l'euro sul dollaro a 1,3083, netto recupero anche sullo yen a 112,08. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi e ritorniamo su un tema sul quale abbiamo già fatto delle belle indagini in passato, ma oggi ci ritorniamo perché il 19 settembre entra in vigore la riforma del credito al consumo. Prestiti, mutui, finanziamenti. Il complesso mondo dei pagamenti a rate e del credito al consumo dal 19 settembre sarà regolato da una nuova normativa, approvata lo scorso 30 luglio dal Consiglio dei Ministri, in seguito alle direttive europee volte a uniformarne le caratteristiche a livello comunitario. Due gli obiettivi su cui si concentra la riforma: una maggiore tutela per i consumatori e una regolamentazione più attenta per gli addetti ai lavori, agenti, mediatori creditizi, intermediari. Per chi richiede un prestito, una novità consistente è senz'altro l'introduzione del diritto di recesso, in caso di ripensamento, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto e, se il finanziamento è a tempo indeterminato, in qualsiasi momento, senza spese aggiuntive. Nel caso specifico dei mutui, poi, viene abolito il cosiddetto ius variandi, la facoltà che le banche fino ad ora hanno avuto di modificare unilateralmente il tasso di interesse a causa di cambiamenti consistenti delle condizioni di mercato. Riformate in profondità anche l'intermediazione creditizia. Per gli operatori è previsto un esame di iscrizione all'albo con requisiti più stringenti in materia di affidabilità e correttezza, più controlli e sanzioni amministrative, l'introduzione di obblighi di solvibilità. Infine, tra le novità più interessanti, anche un giro di vite sulla trasparenza delle pubblicità che lanciano sul mercato prodotti finanziari e il riconoscimento del microcredito, con l'istituzione di un elenco di soggetti no profit autorizzati a svolgere questa attività. 800 24 0024, il numero verde per le vostre domande. Vedo già qualche ascoltatore pronto a porci appunto non solo delle considerazioni, ma vedo anche proprio dei casi concreti, e molti si chiedono già se sui finanziamenti in corso queste norme incideranno. Nicola, no, si parte tutto per il nuovo, immagino. Si parte per il nuovo dal 19 di settembre, cioè da domenica, considerato poi che in realtà dal 19 di settembre entrano in vigore alcuni tronconi di questa normativa, ma per altre norme andranno attese le norme attuative che la Banca d'Italia e il Comitato Interministeriale Credito e Risparmio dovranno emanare entro una sessantina di giorni, e per i quali poi le aziende avranno ulteriore tempo per il recepimento. Allora, abbiamo già definito più volte tutto questo complesso, questo impianto di nuove normative molto tutelanti per quello che riguarda i consumatori. Valentino Ghelli, presidente di Assofin, l'industria di categoria come si sta preparando? Io credo che comunque, siccome è un tema del quale parlavamo almeno da 2 anni, perché abbiamo recepito una direttiva del 2008, credo che l'industria fosse già pronta comunque alla nuova cornice legislativa. Ma sì, certamente direi di sì. Definiamo, richiamiamo ancora un concetto: il decreto legislativo che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è il 141 del 2010. 141 entra in vigore formalmente dal 19 settembre di quest'anno. Poi l'entrata in vigore, questa mi sembra un'informazione importante per i consumatori, nei 2 blocchi principali di questa normativa sarà dilazionata nel tempo, perché è stato dato mandato a Banca d'Italia e all'autorità creditizie per emanare la regolamentazione di attuazione. Quindi su tutta la parte relativa al recepimento della direttiva europea del credito ai consumatori, quella che contempla le norme che sono state richiamate nel servizio di lancio, cioè l'informativa precontrattuale, le comunicazioni alle banche dati, il diritto di recesso in 14 giorni, la possibilità per il cliente di estinguere anticipatamente il finanziamento senza pagare nessuna penale se l'importo è inferiore a 10.000 euro, e molto importante le garanzie in caso di inadempimento del fornitore nella consegna del bene, avranno tecnicamente 120 giorni di tempo per Banca d'Italia per emettere la normativa secondaria, e poi 90 giorni di tempo per gli intermediari per attuare la normativa secondaria. Che vuol dire che se si guadagna qualche giorno e Banca d'Italia riesce entro la fine dell'anno a emanare questa normativa, dalla fine del primo trimestre del 2011 saranno in vigore queste nuove norme. Benissimo. Quindi il consumatore si deve aspettare che per la legge dal primo aprile, e non è uno scherzo, del 2011 saranno applicate le nuove norme, anche se io do per scontato che le società finanziarie, le banche che operano nel credito al consumo, anche da un punto di vista marketing, magari cercheranno di anticipare determinate norme. Cavalcheranno un pochino prima anche queste nuove opportunità, esatto, possiamo anche definirle così. Peraltro dobbiamo aspettare Banca d'Italia, perché, faccio un esempio, è previsto che venga distribuita al cliente una informativa europea sul credito ai consumatori. I contenuti di questo documento da dare ai clienti ancora non li conosciamo, quindi evidentemente dobbiamo aspettare che Banca d'Italia ci dica che cosa dobbiamo Benissimo. Fare. Benissimo, guarda Nicola, sento anche Massimo da Latina, così ribadiamo una volta per tutte che praticamente dal 20 settembre non dobbiamo aspettarci, per chi volesse sottoscrivere un prestito nuovo, tutti questi nuovi standard. Massimo da Latina, buongiorno, quindi figuriamoci per chi ha prestiti in corso, buongiorno. Sì, buongiorno. Rapidissimo, se ce la fa, che devo già andare in pausa. Sì, la domanda era appunto questa, dato che mi occupo di consumatori. Tutti coloro che hanno un prestito in corso, quantomeno per l'estinzione anticipata, potranno avere qualche vantaggio o bisogna aspettare l'aprile del 2011 e nel frattempo fidare sulla buona fede delle banche e delle finanziarie, cose di cui, se mi permettete, ho grossi dubbi. Massimo, sa com'è qua, noi cavalchiamo questo terreno da io sono qua davanti a questo microfono da 7 anni, quindi lo sappiamo bene. Detto questo, insomma, diamo fiducia al sistema che possa ottemperare al meglio agli nuovi standard, però insomma per chi ha un finanziamento in corso e volesse recedere in tempi anticipati, dottor Ghelli, allora, discute con la sua finanziaria. È già possibile ovviamente oggi, l'unica differenza che c'è nel caso specifico del rimborso anticipato è che oggi la penale dell'1% dell'importo che viene estinto anticipatamente viene applicata su tutti i finanziamenti senza una differenziazione per fasce d'importo. Da domani ci sarà al di sotto dei 10.000 euro l'impossibilità di applicare alcun costo, al di sopra di 10.000 euro si mantiene questo 1%. Oggi a Salvadanaio affrontiamo il tema della riforma del credito al consumo, un ambito che è disciplinato dal decreto legge 141 del 2010, quindi della scorsa estate, che va a in sostanza a fare propria, per quello che riguarda il nostro paese, una disciplina europea del settore. La dico in maniera molto banale per farvi capire che cosa succede. Detto questo, le nuove regole, i nuovi standard entrano sì formalmente in vigore con il decreto legge che praticamente entrerà nelle abitudini di tutti a partire dal 19 settembre, ma come ci stavano spiegando i nostri ospiti in apertura, Valentino Ghelli, presidente di Assofin, e Nicola Borzi, collega di Plus 24 del Sole 24 Ore, in realtà bisognerà che l'industria di settore attenda le indicazioni della Banca d'Italia e poi ci sarà tutta la normativa di attuazione. In sostanza, i nuovi standard per l'erogazione di finanziamenti e prestiti probabilmente non li vedremo nella concretezza prima dell'aprile del prossimo anno. Detto questo, non è detto che poi l'industria possa, come dire, in via preventiva anche fare qualcosa di meglio nell'ottica della comunicazione con la propria clientela. Noi però ci atteniamo, insomma, a quello che dice la legge e a quello che prevede tutta questa novità appunto legislativa della quale stiamo parlando questa mattina. Allora, eravamo rimasti, prima di sentire molti ascoltatori che vogliono farci delle domande, al diritto di recesso e alla restituzione anticipata di un finanziamento. Presidente Ghelli, sì. Perché abbiamo detto appunto che la nuova normativa prevede teoricamente il diritto di recesso senza pagare penali. Per chi però ha già dei finanziamenti in corso, ammettendo di aver sottoscritto, non so, 2 anni fa un finanziamento di 5 anni, l'anno prossimo siamo nelle condizioni economiche di poterlo interrompere, quindi di restituire tutta la finanziaria che ce l'ha erogato. Varranno le nuove norme o le vecchie norme? Dal mio punto di vista, interpretazione personale, varranno le nuove norme anche sui finanziamenti pregressi. Ma rimetto in luce un aspetto: siamo in un mercato dove c'è concorrenza e dove c'è una libera concorrenza, per cui io do per scontato che ci sarà una fase graduale di avvicinamento a questo nuovo impianto normativo che porterà le società finanziarie, nell'ambito di attività di marketing e di fidelizzazione della clientela, ad anticipare i contenuti dell'impianto normativo come condizioni di maggior favore. Faccio un esempio: uno dei punti qualificanti della tutela del consumatore prevista dal decreto legislativo 141 è la possibilità di risolvere il contratto in caso di inadempienza del fornitore, se il fornitore non consegna il bene, che è il caso tipico. Allora, questo entrerà in vigore da aprile del 2011. Già oggi, come associazione, vediamo e siamo parte attiva per consentire a società di credito al consumo, con la collaborazione delle associazioni dei consumatori, di risolvere dei casi specifici, certo, che si vengono a creare, per fare in modo che il consumatore, nel momento in cui ha acquistato l'auto e il bene non è stato consegnato, capita molto spesso, non si trovi poi costretto a dover rimborsare il finanziamento. Posso garantire che nella grande maggioranza dei casi già oggi si trovano delle soluzioni consensuali per venire incontro al consumatore. Domani sarà legge, già oggi è un comportamento, è quasi una prassi. Tra l'altro, io prima, facendo l'esempio del famoso finanziamento di 5 anni già sottoscritto 2 anni fa, avevo parlato appunto di diritto di recesso da questo finanziamento. Non è il termine corretto, forse il diritto di poterlo estinguere in maniera anticipata è comunque lo stesso, esattamente, è un'estinzione perché anticipata, invece la norma nuova parla del diritto di recesso del finanziamento se le condizioni non ci convincono, entro 40 giorni dalla sottoscrizione, 14 giorni dalla sottoscrizione. Questo evidentemente 40. Si applicherà sui nuovi finanziamenti, certo. Perché è un qualcosa che può essere esercitato nelle due settimane successive al finanziamento, anche in questo caso senza oneri e senza bisogno di dover dare delle giustificazioni. Infatti di anche questo tipo. È molto, perché adesso bisognava giustificarsi se questo finanziamento non c'è il diritto di ripensamento, quindi se io concludo se io concludo un finanziamento e firmo un contratto, a meno che non ci sia un vizio nel momento in palese. Cui il contratto è stato un vizio palese, il consumatore ha sempre la possibilità di estinguerlo anticipatamente, mentre qui nei 14 giorni può risolvere il contratto. Sergio da Novara, buongiorno. Sergio, sì, ci sente? Sì, vi sento. Ci dica tutto. Allora, io ho un finanziamento con una finanziaria, la Consumit. Sì. Ho chiesto di reso conto dell'estinzione, ma non mi rispondono. Come mi devo comportare? Sergio, allora qui insomma siamo intanto all'ambito attuale, non a quello futuro. Mi sembra che sia la società del credito al consumo del gruppo Montepaschi, mi sbaglio? Esattamente. No, perché siccome li conosciamo anche abbastanza bene, possiamo anche interpellarli per capire cosa succede. Allora, non lo so, chi mi vuole rispondere? Se io voglio estinguere, quantomeno chiedere un conteggio per una possibile estinzione, quanto mi manca, anche se dovremmo saperlo teoricamente, quanto ci manca da chiudere, però serve un documento formale che ci dica insomma qual è la nostra situazione debitoria. Allora, l'intermediario che è stato citato appartiene a un gruppo bancario, sì. Come lei ha ricordato, primario a livello nazionale. Non so se è un problema di qualche malfunzionamento dei contact center e quindi l'impossibilità di ricevere questo questo volevo questo sapere se Sergio è ancora in linea. Mi scusi, dottor Galli, per capire che passi avesse fatto per Sergio. Sì, allora io ho mandato due lettere, non il raccomandato, devo dire questo, non il raccomandato. Poi ho fatto un paio di telefonate, ma hanno risposto anche un po' sgarbatamente. Vabbè. Ma lei vorrebbe chiuderlo in maniera anticipata, Sergio, questo finanziamento? Ecco, io dovrebbe estinguere. Vorrei chiuderlo in maniera anticipata. Insomma, quali sono gli obblighi di risposta, dottor Galli, per capire? Certamente ci deve essere qualche ingranaggio, no, nella macchina che si è inceppato, perché ripeto, è un intermediario qualificato, è un intermediario primario, quindi evidentemente c'è un malfunzionamento. Il consumatore ha il diritto, nel momento in cui vuole estinguere anticipatamente un finanziamento, già oggi senza aspettare la nuova legge, di estinguere il finanziamento. Quindi chiede il conteggio per l'estinzione, la società deve dare il conteggio per l'estinzione. Infatti, se pagherà la penale, avvenuto, che è stata c'è stato qualche fissata, evidentemente, certo. Sergio, se ha tempo ci scriva, perché le ripeto, noi conosciamo abbastanza bene questa azienda e quindi magari ci rivolgiamo direttamente a loro per capire che fine hanno fatto le sue lettere e la sua pratica. Allora, prima di sentire Franca da Roma e Gabriella da Milano, abbiamo due signore, le chiedo ancora loro un minutino di pazienza, perché con Nicola Borsi volevo affrontare il tema di cui lui tra l'altro ha scritto, scriverà, sta chiudendo una pagina molto ampia per Plus 24 di sabato prossimo, tutto il tema che riguarda i mediatori creditizi. Infatti noi su Plus analizzeremo in uno speciale di 4 pagine dedicato esclusivamente agli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi le novità introdotte dalla riforma, a partire dalla questione che era di interesse, sulla quale sono arrivate parecchie richieste di informazioni, del cosiddetto esame che con la riforma dovrà essere passato da tutti coloro che intendono svolgere queste due professioni. Chiariamo un punto, che è un punto importante: coloro che già oggi svolgono la professione di agente in attività finanziaria o di mediatore creditizio, sono iscritti nel relativo balbo o nel relativo elenco e negli ultimi 5 anni hanno accumulato almeno 3 anni, anche non consecutivi, di attività, non dovranno sostenere l'esame, ma dovranno comunque sostenere una verifica. Mentre tutti coloro che entreranno in questa professione dopo la data di entrata in vigore del decreto e dopo che Banca d'Italia, Comitato Interministeriale Credito Risparmio e Ministero del Tesoro, dell'Economia e delle Finanze avranno varato le norme attuative, dovranno invece sostenere l'esame. Uh-huh. Un terzo livello di verifica dovrà invece essere sostenuto e ovviamente passato dai collaboratori, delle persone giuridiche, cioè delle società che svolgeranno queste attività. Il tutto purtroppo è sottoposto a una condizione sospensiva perché prima che questo entri in vigore Banca d'Italia e il Ministero dovranno istituire un cosiddetto organismo, che sarà un organismo paritetico vigilato dalla Banca d'Italia, nel quale ci sarà un rappresentante del Tesoro e uno delle varie categorie che compongono il settore. Il tempo per l'istituzione di questo organismo, che dovrà regolare tutta questa pratica, non è stato fissato. Certo. Quindi una volta che sarà costituito l'organismo, una volta che l'organismo sarà dotato di uno statuto, una volta che saranno definiti le procedure, i testi, gli esami e quant'altro, entrerà in vigore finalmente questa normativa. Diciamo che questa forse è la parte della riforma che avrà una strada un po' più complessa. Sì, anche perché è quella effettivamente più complessa, quella che riguarda una platea vasta di 190.000 soggetti oggi operanti in Italia. Presumibilmente sì, diciamo molte il 2000, società, il 2012. Molti soggetti individuali, per cui è chiaro che uniformare un po' tutto sarà veramente complicato. Però anche questa industria di settore attende la riforma, anche per dare una sorta un po' di scrollata ad una reputazione che spesso in passato non è stata proprio ottimale, Nicola, che per questa categoria. È confermata anche da alcuni dati della Banca d'Italia, perché io qui davanti a me l'ultimo rapporto annuale 2009 dell'unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, quella che censisce le segnalazioni sulle attività sospette di intermediazione, su 22.000, oltre 22.000 segnalazioni nel 2009 dalle agenzie in attività finanziaria ne sono arrivate zero. Allora, noi tra l'altro lo avevamo promesso anche a luglio, faremo prima o poi una puntata solo ed esclusivamente dedicata al tema della mediazione creditizia. Adesso rimaniamo all'ambito più generale della legge sulla riforma del credito al consumo. Possiamo andare a sentire suggerimenti per chi è in viaggio, Roberto, oppure magari sento un'altra domanda e poi rispondiamo. Sentiamo un'altra domanda e poi sentiamo anche le strade. Cominciamo con Franca da Roma. Franca, buongiorno. Buongiorno. Diciamo, la mia domanda è questa. Se rientrano in queste norme i contratti di finanziamento nati a seguito di un acquisto. Mm-hmm. E poi c'è il prestito finalizzato? Eh sì, cioè io ho acquistato un PC e mi ritrovo con una tesserina di plastica con la quale posso prendere un prestito, eccetera, un finanziamento. Non so, scusi signora, una carta di credito è la revolving. Ecco, vabbè, non lo so perché non mi sono informata a fondo. E poi volevo sapere il tasso TAEG se cambiava o chi lo stabilisce. E allora, ha suscitato una bella discussione internossi il caso della nostra ascoltatrice di Roma, Franca, che ci ha raccontato di aver acquistato un personal computer e dice, insomma, poi mi hanno dato una tesserina di plastica, presidente Ghelli, con la quale io potrei anche continuare a fare dei finanziamenti. E lui dice, però non so che cosa mi hanno dato. Allora, tanto per cominciare, Franca, speriamo che lei non abbia usata così indiscriminatamente, perché poi magari lì è anche un credito, un debito, anzi, che esplode, che si ricapitalizza, insomma, e la revolving ha suscitato le belle grane in casa Assofin in passato. Detto questo, allora, che cosa suggeriamo alla nostra ascoltatrice? Sì, allora, c'erano due domande, una relativa appunto a quella che abbiamo identificato come una carta di credito e l'altra sul TAEG. Sgombriamo subito la seconda. Il TAEG per un contratto firmato non cambia. Cambierà la determinazione dei TAEG per i nuovi contratti, perché il decreto legislativo prevede, demandando ancora a Banca d'Italia per specificare bene le modalità di calcolo, che il TAEG sia omnicomprensivo, cioè ricomprenda anche voci di costo che in passato per legge non dovevano essere inserite, fra queste l'imposta di bollo, che è una delle imposte che si paga su un contratto, quindi anche lì nuove regole. Sulla carta di credito c'è stata, con la normativa ci sarà, una diversa modalità di proposizione delle carte di credito ai consumatori, perché in passato questa attività veniva svolta anche da i dealers, dagli operatori della distribuzione commerciale. È previsto nella Posso fare un esempio banale per farlo capire a tutti? La carta di credito dell'Esselunga, con la quale si può pagare la spesa, che adesso era anche, come dire, sì, certo, uno strumento per fidelizzare al massimo la propria clientela. Adesso la potremo continuare, immagino, a sottoscrivere, solo che non ce lo farà probabilmente la commessa dell'Esselunga, il contratto. Esattamente. Questo, quindi, se parliamo di una carta di credito, l'emissione delle carte di credito non potrà essere più delegata alle organizzazioni commerciali se non nell'ambito della normativa sulla PSD, e questo è tutto un altro discorso. Non c'è nel credito al consumo. Quindi potrà essere emessa da banche, da società finanziarie, e questo ha l'obiettivo... Però riportando sopra il brand eventualmente della catena commerciale. Eventualmente, e questo ha l'obiettivo di dare al consumatore maggiori informazioni sullo strumento finanziario che gli viene messo in mano, e quindi direi anche evitare casi come quello della nostra ascoltatrice che... evidentemente non ha avuto queste informazioni quando ha avuto questo prodotto finanziario. Allora, anche se la tagliasse adesso, Nicola, non è che succede niente, visto che le sembra di avere in mano un po' una bomba. No, vabbè, se anche l'avesse usata, l'importante è che restituisca il prestito, poi però se non vuol più avere la tentazione di farlo, allora, se ne se può l'avesse anche... usata, mi meraviglierei che in maniera del tutto inconsapevole avesse avuto accesso a un canale di finanziamento, perché oggettivamente qui siamo nella totale inconsapevolezza dello strumento. Suggerisco la massima attenzione alla questione della sicurezza. Siccome la carta di credito, in particolare gli strumenti revolving, sono tra i più costosi nel panorama del finanziamento dei privati per l'acquisto di beni o servizi, e sono anche tra quelli che aprono una linea di credito vera, indefinita, indeterminata. Cioè, non è una tesserina magnetica, signora, è uno strumento che va utilizzato con estrema consapevolezza, e della cui sicurezza lei deve essere sempre consapevole, cioè deve gestirla in maniera che i dati che sono contenuti su quello strumento non circolino, quindi non la mette in mano ad estranei, non la lasci fuori dalla sua disponibilità, si informi. Per questo che suggerivo una banale sforbiciata, insomma, così non c'è più la tentazione. Immagino che comunque la nostra ascoltatrice abbia anche un contratto. Sì, è già in vigore la norma che tra l'altro prevede che non si possano offrire questi strumenti senza una richiesta diretta del cliente, cioè esatto, che non ti possano essere inviati a casa a seguito di un altro tipo di finanziamento questo genere di strumenti di credito. Infatti l'anno scorso le carte di credito revolving in Italia sono calate di 2 milioni di unità su un parco di quasi 15 milioni anche per questo motivo, perché non c'è più l'offerta in discriminati. Gabriella da Milano, buongiorno anche a lei. Sì, buongiorno. Senta, proprio un caso di cui lei ha parlato. Ho stipulato un finanziamento con la BNL 5 anni fa, nel 2006 a marzo, e scade nel 2011. Proprio ieri mi hanno fatto il conteggio per estinguerlo anticipatamente, perché voglio fare su mia esigenza di chiudere quindi il conto, e mi hanno chiesto infatti l'1% sul capitale residuo, che è di 40 euro. Quindi mi domando, chiuderlo domani o chiuderlo quindi settimana prossima risparmio 40 euro o no? Non credo, Gabriella, no, perché c'è un contratto in essere, ma magari estinguerlo a maggio dell'anno prossimo, dottor Ghelli, forse, secondo la sua interpretazione che ci ha dato prima, potrebbe anche ricadere nel diritto di non pagare questa penale, sì, che sarebbe ridotta, sì, non so se a questo punto vale la la valutazione, direi la domanda è da oggi alla settimana prossima no, in base alla legge, bisogna chiedere alla sua società finanziaria o alla banca se sulla base di questa nuova normativa loro ritengono di rinunciare ai 40 euro. La valutazione se una persona vuole estinguere un contratto di finanziamento per le sue esigenze di gestione del budget familiare, è bene che lo faccia subito, non aspetterei a maggio del prossimo anno. Infatti, risparmia un bel po' di interessi comunque, adesso certo, magari ci paga Nicola questi 40 euro, ma direi che sul piatto. Ecco. Sicuramente gli interessi li risparmia in funzione del tasso che viene applicato, del tipo di contratto che ha sottoscritto. Una cosa sulla quale volevo tornare, non vanno confusi i contratti di finanziamento per il credito al consumo, che sono una cosa e hanno delle categorie ben individuate in termini anche da importo, dai mutui, perché la questione ad esempio dello jus variandi è molto importante sui mutui, ma sicuramente, almeno per quello che riguarda l'interpretazione che hanno dato autorevoli esperti del Sole 24 Ore, invece l'entrata in vigore della norma che vieta lo jus variandi sui mutui non sarà ex tunc, cioè per i mutui già in vigore, ma sarà ex nunc, cioè dal momento in cui entra in vigore il decreto stesso. Allora, credo che avremo modo di tornarci su questi temi molte volte nei prossimi mesi. Sentirei per concludere Roberto da Milano, che è un mediatore creditizio. Buongiorno. Buongiorno, volevo qualche informazione circa le nuove norme che regoleranno le iscrizioni dei mediatori creditizi, in quanto prima era molto semplice acquisire questo titolo, sì, e quindi volevo sapere se attualmente ci saranno dei cambiamenti. Eh sì, Roberto, li ha spiegati molto bene prima anche Nicola Borsi, magari un piccolo riassunto glielo possiamo fare rapido, e qualora ci perdessimo qualche pezzo per strada ricordo la pagina di Plus 24 di sabato. Nicola. Sui mediatori creditizi sicuramente la norma più importante è quella che riguarda il fatto che dovranno essere costituite delle persone giuridiche che abbiano una capacità patrimoniale di almeno 100 120.000 euro. Tra l'altro l'ascoltatore faceva riferimento ad una modalità attuale di iscrizione a questa categoria molto, molto oggi semplice. Oggi come oggi l'iscrizione avviene per richiesta, attestando di avere la cittadinanza italiana o la cittadinanza dell'Unione Europea o di avere la cittadinanza di altri paesi che hanno dei trattati di reciprocità con l'Unione Europea, attestando di avere un diploma di scuola media superiore o dei diplomi equipollenti e attestando di non avere sostanzialmente carichi pendenti, quindi i cosiddetti requisiti di onorabilità. Questo è quanto vale oggi. Si presenta domanda agli uffici della Banca d'Italia e si viene iscritti. Domani le cose saranno diverse, ripeto, ci sarà innanzitutto la necessità del requisito della patrimonializzazione, bisognerà costituire una società di capitali, ci sarà la necessità nel momento in cui entreranno in vigore le norme, ripeto, il tempo non è immediato perché la Banca d'Italia non ha una scadenza entro la quale istituire il cosiddetto organismo, superare un esame professionale sul quale ancora non conosciamo esattamente le materie e le modalità di ammissione e di valutazione. Sicuramente resteranno in vigore il requisito della cittadinanza, il requisito del diploma di scuola media superiore equipollenti e i requisiti di onorabilità si faranno ancora più stringenti. Benissimo, allora io ho terminato il tempo a nostra disposizione, una quarantina di secondi ancora magari per salutare il presidente di Assofin Valentino Ghelli. Complessivamente comunque una bella sfida per tutto il settore del credito al consumo italiano, cresciuto tanto negli ultimi anni, forse a volte perdendo anche un po' la traiettoria, perché insomma si è parlato tante volte anche di consumatori che non hanno avuto un approccio molto consapevole col tema dell'indebitamento. Ma sì, è una bella sfida, ma è una sfida importante perché il mercato è cresciuto. Una delle cose secondo me importanti che daranno ancora maggiori tutele al consumatore è poi la riforma dell'offerta, cioè il consumatore un domani saprà che se una società si presenta come finanziaria è il soggetto che eroga il finanziamento, un agente dovrà qualificarsi come agente che opera per conto di una banca, un mediatore si qualificherà come mediatore. Questo secondo me porterà ordine nel mercato, maggiore trasparenza e tutela per i consumatori. Abbiamo tanti temi per il prossimo anno. Grazie a Valentino Ghelli e Nicola Borzi. Salvadanaio torna domani, buona giornata.